Fileni ha presentato un progetto per la costruzione di un allevamento intensivo alla Cavallara nel comune di Maiolo, in Alta Valmarecchia, sotto San Leo, sotto la Rocca di Maiolo, a due passi dal fiume Marecchia, e lo ha fatto nel 2020. I cittadini però lo sono venuti a sapere soltanto nel 2022, alla fine del 2022, quando sono partiti i cantieri, perché nessuno ha immaginato di coinvolgerli in alcuna assemblea pubblica. Sono molto preoccupati perché, come ha ricordato sabato sera durante una partecipatissima assemblea pubblica, la prima sul progetto a distanza di 3 anni dall'avvio, diciamo, del suo iter nel Teatro Sociale di Nova Feltra, pieno in ogni suo spazio, l'oncologo Lorenzo Menghini. Si tratta di impianti molto dannosi, nel senso che con emissioni di ammoniaca, emissioni di metano, quindi gas climalteranti da una parte, il metano, e sostanze che peggiorano la qualità dell'aria e sono precursori delle PM2.5, che sono sostanze cancerogene. Unito a tutto questo, ovviamente c'è la preoccupazione anche per un modello di allevamento, quello intensivo, industriale, che vede appunto stimati tra i 500.000 e gli 800.000 polli all'anno allevati in Valmarecchia con, e lo ha spiegato qualcuno dal pubblico con chiarezza sabato sera, con condizioni di vita per questi animali veramente penose, no? Negli 80 giorni che dura la loro pur breve vita stipati all'interno dei capannoni. La cosa curiosa, per modo di dire, insomma anche allarmante, è che in realtà questi polli saranno considerati bio. L'azienda ha specificato che nell'allevamento appunto di Maiolo, se venisse aperto, coltiverà dei polli che saranno certificati biologici, quindi si troveranno nella grande distribuzione organizzata con il marchio della fogliolina europea. C'è stata a gennaio, penso che molti l'abbiano vista, un'inchiesta di Giulia Innocenti, che sabato sera era a Nova Feltria, uscita appunto sulla trasmissione di Rete 3 Report, che evidenzia tutte le lacune di una certificazione biologica legata a prodotti industriali. Probabilmente, e lo dico anche da giornalista di Altra Economia, insomma, che lavora su questi temi della sostenibilità e dell'agricoltura da una quindicina d'anni, probabilmente dovremmo ripensare l'idea che possa esistere un'agricoltura intensiva biologica, perché l'agricoltura biologica dovrebbe essere necessariamente agricoltura contadina e anche allevamento contadino. Torniamo a questo allevamento, al progetto che però ottenuto il via libera della regione. Il progetto ha ottenuto il via libera della regione con una, diciamo, con alcune scorciatoie. Intanto una variante al piano regolatore del comune di Maiolo, che non prevedeva che si potessero abbattere gli edifici esistenti sull'area che aveva ospitato dagli anni 70 un precedente allevamento. Per questo oggi parliamo di una valle che torna indietro di 50 anni e costruirne uno nuovo. E dall'altra il paradosso del servizio giuridico della regione Emilia-Romagna, che ha espresso un parere secondo cui l'attività aziendale si configurerebbe come una continuità aziendale. Questo nonostante la proprietà sia passata di mano 2 volte, da quando nel 2009 l'allevamento ha chiuso alla Cavallara, e nonostante appunto ci sia stato di mezzo anche un fallimento da cui Fileni ha rilevato la proprietà. Questi sono alcuni paradossi. Purtroppo i cittadini sono diventati consapevoli della situazione quando erano già scaduti i termini per opporsi dal punto di vista amministrativo, quindi in questo momento appunto vogliono far sentire la propria voce. Domenica mattina c'è stata anche una manifestazione, una passeggiata alla Cavallara di fronte a, che si è chiusa simbolicamente di fronte al cantiere, per manifestare la loro contrarietà rispetto all'intervento, e stanno cercando anche di coinvolgere le amministrazioni del territorio e presto anche l'amministrazione regionale per capire se la regione in qualche maniera abbia voglia di autotutelarsi rispetto a un'autorizzazione che probabilmente ha tante lacune dal punto di vista formale e che, ricordo appunto, è una delibera di giunta i cui primi 2 voti espressi sono quelli degli attuali candidati alla segreteria del Partito Democratico, quindi Bonaccini e Schlein. La battaglia potrebbe diventare legale. Sì, però di certo non è l'unica strada percorribile, nel senso che deve essere anche, non so, place based, deve essere anche territoriale. Dobbiamo anche far vedere in maniera chiara che c'è una contrarietà forte sul territorio. Stasera ci sarà un'assemblea del comitato per riflettere rispetto al successo delle iniziative di sabato e domenica e studiare insieme anche i prossimi passi.